per la trasmissione. Grazie. Molto carine. Grazie. Però adesso parliamo anche in coro col generale. Allora, come le gemelline siamesi. Comincia tu, se no qua non finiamo più. Una tazza molto chic che portiamo dall'America e si chiama Dada On Pa. Dada On Pa. Dada On Pa. Dada On Pa. Cuore e denari di Nicoletta Carbone e Deborah Rosciani. Voglio andare a casa. A casa dov'è? La casa dove posso stare in pace. Io voglio andare a casa. A casa dov'è? La casa dove posso stare in pace. Io voglio andare ecco, a casa. Ecco, quello è quello che piace proprio fare a me, Nicoletta, fare in modo che i nostri ascoltatori si sentano a casa. Speriamo. Vero? Che si sentano davvero a casa, ma ci scrivono e sembra così. Ecco, allora continuate a scrivercelo se vi sentite a casa quando siete in nostra compagnia, perché non ce la date questa pacca sulla spalla, perché ci fa sempre bene. Sentirsi a casa vuol dire essere a proprio agio, non farsi problemi nel chiedere aiuto. Io la tempesto, la povera Nicoletta, mi fa sempre male tutto. Un consiglio nel fare una confidenza: ma sentirsi a casa vuol dire anche circondarsi di oggetti, colori, muri solidi e che sentiamo familiari e in sintonia con il nostro modo di essere. Ma visto che ogni tanto anche il nostro modo di essere cambia, può essere arrivato il momento in cui iniziamo a volere una cosa diversa per quello che riguarda la nostra casa, e quindi track, ecco che ci viene il guizzo di ristrutturarla. Più semplicemente, qualche volta è il tempo che si fa sentire su immobili e mobili, rendendo necessari un po' di lavori. Lavori che naturalmente si rendono necessari, ma che non è che costino poi poco. Per fortuna ci sono i bonus fiscali sulle ristrutturazioni e sul miglioramento energetico degli edifici, che alleggeriscono un po' queste spese. Noi ne abbiamo parlato tante volte nel corso del nostro programma, ma l'argomento ci interessa sempre e soprattutto vogliamo sincerarci che con l'arrivo dell'anno nuovo non sia cambiato niente, e infatti non è cambiato nulla. Bonus che c'erano l'anno scorso ed erano molto generosi sono stati ritrasferiti per tutto il 2015, dovevano essere ridotti, quest'anno invece sono esattamente uguali allo scorso anno. Allora oggi facciamo un bel riepilogo a vostro beneficio. 800 24 00 24, iniziate a prenotare le vostre domande se pensate che il 2015 sia l'anno buono per fare un lavoro in casa. E a proposito di casa, Deborah, sono molti gli italiani, l'avrei letto, ci sono appunti dati anche su oggi su alcuni quotidiani, italiani bloccati a casa dall'influenza. I sintomi sono quelli di sempre: la spossatezza, febbre, quest'anno anche molto alta, mal di testa, raffreddore, dolori muscolari, mancanza di appetito, mal di gola e tosse. La voce del polmone, come la chiamava Ippocrate, al primo posto, pensa proprio nella classifica dei disturbi per i quali si consulta il medico. Questo secondo uno studio pubblicato dal New England. Allora, ai nostri amici che ci stanno ascoltando da casa, avete la tosse? Qualcuno vicino a voi tossisce o starnutisce? Allora, intanto mettetevi subito al riparo, perché gli studiosi americani hanno rilevato che le goccioline microscopiche infette emesse con un colpo di tosse o con un semplice starnuto restano sospese nell'aria, galleggiando in concentrazioni abbastanza alte da conservare la capacità di contagio e quindi la diffusione della malattia per diverse ore. Quindi, a proposito, secondo voi contagia di più uno starnuto o un colpo di tosse? Stavo pensando, la tosse è un bel guaio per chi fa il nostro lavoro, eh? Vero, a me viene già subito il raspino. Allora, in gola. 800 24 0024, schiaritevi la voce, chiamate il nostro numero verde. Casa mia, per piccina che tu sia, tu mi sembri una badia. Casa mia, per piccina che tu sia, tu mi sembri una badia. È solo una casa, ma poi diventa la nostra casa e vogliamo che sia funzionale, sicura, bella. Per questo c'è un prezzo da pagare, ovviamente, ma ci sono per fortuna anche i bonus fiscali che ci aiutano. Oggi torniamo a parlarne con due ospiti che saluto subito, sono ormai degli amici consolidati di Cuore e Denari. Gianni Marchetti, responsabile della formazione di AGEFIS, l'associazione dei geometri fiscalisti. Buongiorno. Buongiorno, buongiorno a lei e a tutti gli ascoltatori. Benvenuto e buon anno, naturalmente, grazie, altrettanto. Grazie. Buon anno anche a Luca De Stefani, che è il nostro esperto di temi fiscali, nostro, oltre che per il Sole 24 Ore. De Stefani, benvenuto. Grazie, buongiorno a tutti. Vi sentite a casa? Dottor Marchetti, dottor De Stefani, è un po' la vostra casa, Cuore Denari. Loro si sono affezionati. Ormai sì. Ecco come ci scrive Fernanda. Cosa scrive? Non solo mi fate sentire a casa, ma voi stesse siete diventate parte della mia famiglia. A lungo andare ci si affeziona anche via radio. Ciao amiche, ci scrive Fernanda e noi la salutiamo. Sono pronta per andare a prendere un caffè a casa di Fernanda. Allora, 800 24 00 24, voi raccontateci anche cosa vorreste cambiare in casa vostra e se vi siete già informati su quanto costerebbe. Sapete già che sarà possibile per voi usufruire di un bonus fiscale, sapete come funziona, raccontatecelo al numero verde, ma scrivetecelo anche al 349 238 6666 e cominciamo ad addentrarci nelle tante scale di grigi, nei tanti casi limite che sempre riuscite a sottoporci. Attenzione, con le sfumature di grigio. Beh, è in uscita il film, Non hai nessuna puntata di Cuore da proporre sull'argomento? Guarda, il tema mi alluzza, ci penseremo. Allora, Marchetti, noi parliamo spesso dei bonus casa, ma forse chi non ha in mente di ristrutturarla non ne presta ovviamente l'attenzione a questo argomento. Quindi, per chi invece ha preso la decisione di fare i lavori proprio in questo 2015, siamo pronti a fare un ripasso. Intanto, di che cosa si tratta in breve e chi è interessato? Una super rapida sintesi dell'argomento. Consiste nella possibilità di avere la restituzione di parte della spesa sostenuta, in linea generale il 50% per quanto riguarda gli interventi di ristrutturazione edilizia e il 65% per gli interventi di qualificazione energetica, attraverso uno sconto fiscale frazionato in 10 anni. Sono interessati a questo bonus le sole persone fisiche e proprietari di immobili residenziali, nonché i condomini, per quanto riguarda gli interventi di ristrutturazione edilizia, mentre per quanto riguarda gli interventi di qualificazione energetica possono godere dell'agevolazione anche le persone giuridiche. Per ciascuna tipologia di intervento valgono regole specifiche che probabilmente approfondiremo nel certo corso della trasmissione con le domande degli ascoltatori. Perfetto. Luca De Stefani, questi bonus esistono da diversi anni, abbiamo fatto credo 1 milione di trasmissioni sull'argomento. La questione è che di anno in anno molti di questi venivano praticamente continuamente prorogati fino a diventare, come dire, poi nella sostanza strutturali, anche se avevano bisogno appunto di questo intervento, di questo passaggio legislativo per riconfermarli per l'anno successivo. Ritorniamo a fare proprio un quadro sulle percentuali di risparmio che ci spettano se vogliamo imbarcarci in questi lavori casalinghi. Sì, per quanto riguarda allora la classica ristrutturazione edilizia, l'ex 36% che oggi si può detrarre al 50%, c'è stata la proroga di questa maxi detrazione del 50% fino alla fine di quest'anno. Dal 1 gennaio del 2016 invece si ritorna al classico 36%, a meno che appunto non vi sia una ulteriore proroga a fine di quest'anno. Per quanto riguarda invece le spese di risparmio energetico qualificato, ad esempio i pannelli solari per la produzione dell'acqua calda, piuttosto che l'inserimento di cambio, la sostituzione di caldaie con caldaie a condensazione, oppure la sostituzione di finestre con infissi con una trasmittanza termica importante, in questi casi il bonus è del 65%. La legge istitutiva della norma prevedeva il 55%, ormai dal 6 giugno del 2013 siamo passati al 65% e fino alla fine di quest'anno c'è questo maxi bonus. Dal 1 gennaio del prossimo anno invece questa detrazione fiscale non vi sarà più, però diciamo che si potrà comunque beneficiare della classica detrazione del 36% con la norma delle ristrutturazioni edilizie. C'è anche il risparmio del 50% per il rinnovo dell'arredamento, De Stefani, magari una piccola precisazione, vale la pena farla anche su questo perché già degli ascoltatori ce lo stanno chiedendo. Sì, certo. Anche questa doveva essere annullata quest'anno ed è stata riconfermata? Esattamente, è stata confermata. giornata. L'importante è aver effettuato dei lavori di ristrutturazione nella propria abitazione dal 6 giugno 2013. Quindi tutti i soggetti che hanno avuto prima di acquistare i mobili e gli elettrodomestici questa detrazione di ristrutturazione edilizia, e precisamente parliamo di manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia, ricostruzione degli immobili danneggiati da eventi calamitosi e l'acquisto di abitazioni facente parte, fabbricati completamente ristrutturati, in tutti questi casi, quindi purtroppo non il semplice cambio della presa elettrica difettosa, ma in tutti questi casi particolari, comunque di lavori importanti nella propria abitazione, è necessario, prima appunto di comprare i mobili e i grandi elettrodomestici, è necessario aver fatto prima questi lavori di ristrutturazione, e il bonus termina alla fine di quest'anno. A proposito di bonus, Patrizio al 349-238-6666 ci scrive: tetto nuovo e imbiancatura esterna, quant'è il bonus fiscale? Marchetti, vengo da lei. Tetto nuovo è un, a seconda dei criteri con cui viene rifatto, può essere addirittura considerato un lavoro che può portare una riqualificazione energetica della casa, quindi il lavoro che vale di più dal punto di vista dello sconto fiscale? Assolutamente sì, è chiaramente il rifacimento del tetto per poter accedere al beneficio del 65%, quindi la riqualificazione energetica deve garantire il rispetto di determinati parametri che sono previsti dalla norma, di determinati parametri di risparmio energetico. Probabilmente molto spesso invece il semplice rifacimento del tetto rientra negli interventi, nei tipici interventi di ristrutturazione edilizia, quindi con il beneficio fiscale del 50%. Credo che invece l'imbiancatura esterna sia da considerare un po' una manutenzione ordinaria che non può fare in modo che il nostro ascoltatore fruisca di nessun bonus, vero? Dipende, nel senso che se la si considera a sé stante, se parliamo di una singola unità immobiliare, sì. Se invece è ricompresa un intervento più, ad esempio se viene fatto unicamente il rifacimento del tetto per il quale si è avuto un titolo abilitativo di manutenzione straordinaria piuttosto che di ristrutturazione edilizia, anche le spese per l'imbiancatura della facciata rientrano nel beneficio fiscale. Va considerata tutta nella parcella, esatto, diciamo, che viene pagata, esatto, all'impresa che fa tutto il lavoro complessivo, esatto, quindi può essere detratta anche questa. Esatto. Lorenzo da Padova. Sì. Certo. Lorenzo da Padova invece ci scrive: questo è un tema che interessa Luca De Stefani, sto ristrutturando casa, ho una fattura con data 2014, la pago con bonifico 2015. Ai fini della detrazione fa fede la data del bonifico, giusto? Che tra l'altro deve avere anche dei requisiti molto specifici. De Stefano, ricordiamoli subito. Sì, allora il bonifico si dice cosiddetto parlante, è diverso tra la ristrutturazione edilizia rispetto al risparmio energetico qualificato. In particolare, per quanto riguarda il nostro ascoltatore, parliamo di risparmio energetico, quindi il bonifico deve indicare la norma istitutiva della legge, che è l'articolo 16 bis del TUIR, oltre che il codice fiscale del soggetto beneficiario del bonus e il codice fiscale del soggetto beneficiario del bonifico. Quindi bonifico parlante vuol dire che ha nella sua causale queste tre componenti, la norma e i due codici fiscali dei due soggetti interessati dal bonifico. Per quanto riguarda il momento rilevante del bonus, si applica il principio di cassa e non quello di competenza, quindi non rileva il momento in cui è stata fatta la fattura o sono stati effettuati i lavori o terminati i lavori, che potrebbero addirittura terminare quest'anno, ma rileva solo la data del pagamento tramite bonifico parlante. Siccome il nostro ascoltatore ha fatto il bonifico quest'anno, nel 2015, la detrazione potrà essere usufruita nella dichiarazione di redditi del prossimo anno relativo appunto al 2015. Tra l'altro a Lorenzo è andata anche bene, perché rischiava anche con il fatto che ha pagato nell'anno nuovo di non poter più fruire, no, degli incentivi fiscali così generosi, perché effettivamente fino all'ultimo non abbiamo saputo se venivano confermati De Stefani o meno a questo livello, insomma in questa percentuale, quindi gli è anche andata bene, altrimenti è corretto. Ogni anno difatti c'è la corsa a fare i pagamenti, perché non si sa se c'è la proroga oppure no. Abbiamo già un ascoltatore. Abbiamo Antonio che ci chiama da Bergamo, 800240024, benvenuto. Scusi. Ecco, pronto, subito, grazie. La tosse. Ecco, pronto, pronto. Eccolo qua. Era l'emozione o l'influenza, Antonio? No, un po' di tosse, mi scusi. Allora, la domanda è questa. Avendo iniziato nel 2013 con comunicazione al comune di inizio lavori per sostituzione, infissi, attrezzature del bagno, riscaldamento, condensazione, così, e avendo proseguito nel 2014. Poi ci siamo interrotti, quest'anno intenderei rifare anche circa 20 metri quadri di terrazza fuori dalla casa in giardino. Questo lavoro potrebbe essere considerato come ristrutturazione oppure un mio capriccio? Allora intanto, se è un capriccio, lo faccia bello questo terrazzo, così ci invita, io e Nicoletta veniamo volentieri a così goderci il panorama che si vedrà certamente da casa sua. Detto questo, facciamo una duplice risposta, sia quella di natura fiscale che quella tecnica. Marchetti, inizio con lei. Che caratteristiche deve avere il lavoro di rifacimento di un terrazzo per godere di un incentivo fiscale di quelli che abbiamo parlato fino ad ora? Deve consistere in una, come dire, per poter rientrare perlomeno negli interventi di manutenzione straordinaria, quindi quelli per i quali è previsto il beneficio fiscale, occorre rinnovare, non limitarsi soltanto alla semplice sostituzione, che ne so io, delle piastrelle, ma bisogna sostituirle con materiali di qualità e natura diverse, quindi non un semplice intervento di sostituzione, ma bisogna rinnovare i materiali. E certo, come dire, magari far passare il lavoro come se fosse una rimessa in sicurezza un po', no, di tutta, esatto, questa superficie. Appunto, ecco. Chiaramente se il terrazzo, il balconcino è in cattive, in pessime condizioni e necessita un intervento di consolidamento, a quel punto sicuramente è un intervento. Che può beneficiare delle De Stefani, il nostro ascoltatore ci raccontava che è già da un bel po' di anni impegnato in una serie di lavori di riqualificazione nella sua casa, fatto il rifacimento del bagno con la caldaia nel 2013, io spero che abbia già fatto valere tutti i suoi diritti in quanto contribuente che aveva diritto appunto a questi incentivi fiscali. Se si fosse dimenticato, è ancora in tempo per lavori fatti nel 2013? Allora, per quanto riguarda il 2013, se lui avesse fatto il bonifico parlante nel 2013 e si fosse dimenticato nella dichiarazione presentata quest'anno, quindi a giugno o a settembre di quest'anno... Dell'anno scorso ormai, deve dire, ormai. De Stefani. Esattamente, l'anno scorso del 2014, giusto? E se si fosse dimenticato di inserire la detrazione del bonus, potrebbe comunque continuare nella dichiarazione che presenta nel 2015 relativa al 2014, continuare a detrarre le 10 rate, cioè partirebbe dalla seconda rata praticamente e non perderebbe il bonus dalla seconda alla decima data. Inoltre, per quanto riguarda la prima rata, diciamo, di detrazione fiscale, che se appunto si è dimenticato di indicare nella prima dichiarazione dei redditi di questo esempio, potrebbe richiedere rimborso oppure presentare addirittura una dichiarazione integrativa e chiedere rimborso tramite una dichiarazione integrativa. Nicoletta, vedo che a Bergamo qua stanno ristrutturando tutti. Andiamo subito da Cinzia. Certo. Buongiorno, benvenuta Cinzia. Il settore edile si sta riprendendo. Lavori in corso a Bergamo. Esatto. Allora, noi dobbiamo fare un po' di lavori in casa e in taverna. Che bello, come la invidio Cinzia, anche se io ho un periodo da incubo, lo si passa sempre quando si fanno questi lavori, però tutto questo progetto per la propria vita secondo me è molto molto bello, insomma. Ci dica. Allora, in casa vorrei buttare giù la parete tra la cucina e la sala, quindi fare tutto aperto. Tutto aperto. E in taverna volevo mettere il caminetto e fare il bagno. Quindi volevo sapere che tipo di incentivi, insomma, avevo per questo tipo di lavoro, se era sempre ristrutturazione oppure il caminetto poteva rientrare nel risparmio energetico. Allora, a noi già l'idea dell'open space ci piace tantissimo, vero? Quindi, però mia. i nostri esperti loro dicono no, se vuoi l'incentivo rimani lì con la parete, non credo. Marchetti, comincio con lei. Il caminetto a quale caratteristica deve rispondere per poter dar diritto al contribuente di avere l'incentivo fiscale al top, quello del 65%? O un caminetto non c'entra nulla? Se dovesse alimentare un impianto di riscaldamento di tutta l'abitazione, carino, il caminetto. Un caminetto di per sé non può rientrare nel beneficio fiscale per la riqualificazione energetica, perché La norma prevede che venga sostituito l'impianto di climatizzazione esistente con un altro, quindi e con intervento contestuale anche sull'impianto. Quindi il caminetto ce lo boccia. Quindi il caminetto lo boccio, lo metto al 50%, ecco. Perché rappresenta già di partire. Buttalo via, invece del 36% dall'anno prossimo, esatto, insomma. Esatto. Per cui ecco Cinzia, tutti questi lavori li può fare. Esatto, e lo Stato le ridà in 10 anni il 50%. Ricordiamo ancora nello specifico De Stefani, perché questo è un aspetto che genera spesso e volentieri grande confusione. Non è che se io quest'anno spendo 30.000 euro per fare un lavoro e ho il bonus fiscale del 50%, l'anno prossimo lo Stato, con un assegno firmato da Matteo Renzi, mi restituisce la metà dell'importo. No, è diluito, ribadiamolo, in 10 anni sotto forma di risparmio fiscale. Esattamente. E quindi sulle tasse che dovrei pagare il prossimo anno detraggo, quindi tolgo dall'importo appunto di queste tasse, un decimo del bonus fiscale che appunto pari al 50% di quanto speso. Volevo ricordare a riguardo, per quanto riguarda appunto il caminetto, che quest'anno è stata introdotta una nuova, dal primo gennaio di quest'anno solamente per il 2015, detrazione del 65% per l'acquisto e la posa in opera di caldaie praticamente con biomasse combustibili, quindi pellet, legna da ardere, pasta e masse. Proprio il pellet. Proprio il pellet che ha l'aumento dell'IVA al 20% al 22%? Purtroppo sì, proprio quello dal 10 al 22 dal primo gennaio. Cioè, da una parte te li dà lo Stato, dall'altra parte te li leva. Guarda che giro che si sono inventati. Cioè, non cambia nulla. Non cambia nulla. Sì, vabbè. Esatto. E comunque abbiamo un'informazione in più. Cuore e denari. Era una casa molto carina, senza soffitto, senza cucina. Non si poteva entrarci dentro perché non c'era il pavimento. C'è chi sta pensando alla ristrutturazione della propria casa approfittando dei bonus fiscali che sono stati confermati anche per quest'anno, e chi invece è a casa a ristrutturarsi, per così dire, a rimettersi dall'influenza, e sta facendo i conti con raffreddore, febbre, tosse, secca, stizzoso, grassa, per essere più precisi, produttivi. La tosse, dicono e raccomandano i medici, non va trascurata, non va lasciata che si trascini per lungo tempo senza motivo, né soprattutto va messa a tacere con rimedi fai da te prima di aver scoperto le cause che l'hanno provocata. Allora oggi vogliamo parlarne insieme. Intanto voi chiamate il nostro numero verde, preparatevi a raccontarci se avete la tosse, se è secco, grassa, in quale momento della giornata si manifesta con maggiore frequenza, da quanto tempo dura e in quali condizioni ambientali peggiora, ad esempio all'aperto o al chiuso, e ancora se si manifesta con maggiore frequenza quando siete fermi o in movimento, quando siete sdraiati o invece all'impiedi. 800 24 00 24, hai provato a rispondere anche tu a tutte queste domande? Ho provato a rispondere alla domanda se è più pericoloso il colpo di tosse o lo starnuto. Non basta dire uno o l'altro, bisogna anche motivare, dare il motivo, perché ci sono dei ricercatori americani che hanno proprio fatto una ricerca ad hoc. 800 24 00 24, vi aspettiamo. Sono lì che sto tirando sul muro? Viene di lui? L'architetto mi fa: non bisogna più usare quella malta con i reagenti chimici. Oggi, secondo la bioarchitettura, i nuovi requisiti del Feng Shui, vanno usati dei calce naturale, terra nuda e calce con la caseina. Vuol dire, fa un riassunto? Fa la caseina? È una calce fatta con il formaggio. Ah, ho capito. Non si usa più quell'isolante lì adesso, ci vuole la cera d'api per i tetti. Metto le tegole e lui arriva lui là, al ven l'architetto, il bioarchitetto, fa: no, lì bisogna mettere il cotto fiorentino. E perché non mettiamo il crudo di Parma, godè? E anche un po' di magatello, due fette di bresaola. Allora, noi non ci mettiamo la bresaola come Enrico Bertolino nei panni di questo muratore bergamasco. Peraltro abbiamo capito che stamattina a Bergamo gran lavori di ristrutturazione, ma nei nostri lavori di casa ci dobbiamo sicuramente investire un po' di denaro. Per fortuna ci sono i bonus che ci aiutano, e per fortuna che ci sono anche con noi stamattina Gianni Marchetti di Agefis o Agefis, mettete l'accento dove volete. Dove va Marchetti l'accento? Age. Io Agefis. Agefis. Io dico Agi, come lui, così non sbaglio. Agi è l'associazione dei geometri fiscalisti e poi il nostro commercialista Luca De Stefani. E poi tutte le vostre domande all'800 24 00 24. Siamo già state un po' bacchettate perché non abbiamo ricordato, era tutto già previsto in questa seconda parte della scaletta, i tetti massimi di spesa che ci possono permettere di ottenere i bonus fiscali che abbiamo elencato. Marchetti, allora ricordiamoli di nuovo, se faccio lavori per 500.000 euro nella mia casa non è che lo Stato mi restituisce il 50% di tutta questa somma, fino a quanto mi restituisce? Se faccio degli interventi di ristrutturazione edilizia e sostengo le spese nel 2015, il limite massimo di spesa è di 96.000 euro, mentre se le farò negli anni successivi, a partire dal 2016, e senza nuovi interventi legislativi, il limite torna a essere di 48.000 euro. Si fanno un bel po' di cosine con questi soldi, mi rendo conto che quando si chiama un'impresa e si mette mano a tutta la serie di lavori in casa, insomma, se ne vanno via molto velocemente, però 96.000 non sono una cifra da trascurabile. Infatti, De Stefani, un altro tema molto importante per porle questa domanda, le sottopongo il caso di una nostra affezionatissima ascoltatrice Katia, che ci scrive moltissimo da Zurigo. I miei genitori ci raccontano dovuto rifare il bagno, intanto un muratore di idraulico, vabbè io qua la dico sempre, però hanno chiesto fattura oppure no, e qua chiuso la parentesi. La casa è intestata a mia mamma, che è incapiente, e quindi a causa di questa incapienza, per cui non percepisce reddito, non paga le tasse, non versa l'IRPEF, eccetera, non può recuperare nulla. Come può superare questo ostacolo? Per esempio, Katia potrebbe imbarcarsi dei lavori della casa dei suoi genitori per poter eventualmente non perdere l'incentivo fiscale? Il problema è che non è convivente, non essendo convivente con la mamma non sarebbe possibile. L'unica strada è quella di effettuare un contratto di comodato gratuito tra la mamma e la figlia, dove si specifica che la figlia può usare gratuitamente quando vuole appunto l'immobile, in maniera appunto non esclusiva, perché appunto ci abita la mamma in questa casa, e quindi un comodato diciamo parziale dell'abitazione, e dopo aver effettuato questo contratto di comodato, che deve essere obbligatoriamente registrato, l'ha precisato l'Agenzia delle Entrate sul tema proprio, è possibile che la figlia effettui tutte le spese, faccia i bonifici, riceva le fatture intestate a lei, faccia i bonifici parlanti, e poi la figlia può beneficiare di questo bonus. E una volta che sono terminati i lavori, il contratto di comodato d'uso si può sciogliere regolarmente? Sì, il fisco non viene a contestare nulla per il fatto che è stato un contratto temporaneo solo per avere questo vantaggio fiscale? No, potrebbe essere elusiva, però comunque l'Agenzia delle Entrate ha chiarito che l'unica condizione è che ci sia questo contratto. Poi bisognerebbe un po' provare il fatto che comunque la figlia utilizzi questo immobile, comunque non vedo grossi problemi sulla cosa. Ecco. Un'altra domanda arriva da Paolo da Latina. Deborah, se la casa è cointestata 50% a ciascun coniuge, come funziona la detrazione? Credo che si divida, De Stefani, giusto? Allora, dipende sempre chi effettivamente sostiene la spesa. Io in questi casi consiglio sempre di essere chiari con... Allora, se il conto corrente è cointestato, partiamo dall'esempio classico, il conto corrente è cointestato, quindi nel bonifico verranno fuori i due nominativi, è possibile che l'impresa faccia la fattura cointestata ai due soggetti e si divide, come si diceva, il bonus. Però per non creare confusione, se avessero due conti correnti separati addirittura possono fare tanti lavori, da fare 96.000 euro a testa di lavori e avere tutto il massimo incentivo fiscale? Sì, allora diciamo che i 96.000 euro non si dividono mai tra i due soggetti, ma riguardano il singolo immobile, quindi l'immobile più la pertinenza, quindi avrebbero in questo caso 48.000. Però appunto consiglio, per evitare problemi, nel caso in cui il conto corrente sia di un solo soggetto, che anche la fattura venga intestata a questo soggetto, e quindi lui detrarrà tutti i 96.000 euro, anzi i 48, perché poi 96.000 euro è l'importo massimo della spesa, la detrazione è 50%, quindi 48.000 euro. Allora, l'avevamo salutata, adesso andiamo proprio a casa sua. Ornella da Como, buongiorno. Che non vuole far prendere la tosse alla sua casa, naturalmente, quindi ho fatto la battutona, Ornella. Buongiorno. Senta, io vorrei sapere se abbiamo diritto a degli incentivi facendo il cappotto alle pareti interne però della casa. Ecco, e se bisogna fare tutte le pareti della casa, oppure possiamo fare solo una parte. Le stanze che le servono, Ornella. Grazie, ecco. Grazie mille. Marchetti, qua mi serve il tecnico. Vuole fare un progetto per la casa di Ornella? Vogliamo fare il cappottino interno? Ma la norma prevede la possibilità di beneficiare dell'agevolazione per gli interventi sull'involucro dell'edificio, rispettando però determinati parametri di trasmittanza, quindi credo che con l'intervento sull'interno non sono così tecnico da poterle rispondere con assoluta certezza. È evidente che se l'intervento, che sia sulle pareti esterne o sulle pareti interne, rispetta i parametri di trasmittanza richiesti dalla norma, di trasmittanza termica richiesta dalla norma, chiaramente è agevolabile. Allora, tra l'altro, questa domanda mi dà l'opportunità per fargliene un'altra, Marchetti, nel senso che io l'ho imparato anche sulla mia pelle, sulla base della mia esperienza quando ho fatto i lavori in casa. Per chi fa lavori che hanno l'obiettivo di riqualificare dal punto di vista energetico la propria abitazione, deve fare il calcolo prima dell'inizio dei lavori di quella che lei appunto ha ricordato è la trasmittanza energetica, o l'ho pronunciata correttamente, per capire quanto consuma quella casa, quanto calore disperde, e poi una volta fatti i lavori bisogna rifare questo calcolo per capire se effettivamente il lavoro è stato efficace, no? Un prima e dopo. Ecco, è così? È ancora così la regola? Sì, nel momento in cui faccio un intervento che interviene sul complesso dell'edificio, sì, devo calcolare quello che è la prestazione energetica dell'edificio prima dell'intervento, e poi devo verificare se a valle dell'intervento stesso ho ricondotto questo parametro al di sotto di quello che sta dalla norma. È la famosa asseverazione, mi ricordo male? Esatto, sì, ci deve essere un tecnico che assevera appunto il risultato dal punto di vista della prestazione energetica dell'edificio con comunicazione all'ENEA. Hai visto quante ne so? Asseverazione. Mamma mia, quante ne diversificazione, sapete? Diversificazione più facile. Allora, abbiamo terminato la parte dedicata alle ristrutturazioni. Io chiedo gentilmente a Giordano da Brescia, Gianni da Padova e tutti gli altri, siete stati una marea, che ci avete scritto, di riproporci il vostro quesito alla mail cuoredenari@radio24.it. Gli amici di Agefis e Luca De Stefani sono sempre a nostra veramente totale disposizione, rispondono in 448 a tutti i vostri quesiti, per cui sia sul lavoratore come Coco Pro, sia Giordano che vuole sapere se la detrazione è una deduzione appunto o una detrazione, rispondiamo naturalmente poi in privato, perché come sempre qua di pomeriggio si lavora. Grazie Marchetti e De Stefani, buona giornata e buon anno. Grazie, anche a voi. Grazie. Segnalo solo un'ultima cosa, Nicoletta, perché mi sono scordata. Sul Sole 24 Ore di stamattina c'è un super pezzo di un altro amico di Cuore e Denari, che è Marco Zandonà. Bonus su lavori e mobili a scadenza unificata, nel senso che poi scade tutto a fine anno. Per cui tutto il riassunto di quello che abbiamo detto questa mattina è molto ben sintetizzato anche da tutta una serie di tabelle che Marco ha realizzato, molto chiari, sulle pagine di Norme e Tributi, pagina 27. Ho terminato. Cuore e denari. Riprendiamo il Cuore e Denari con la splendida voce di Pavarotti per parlare di un'altra voce, la voce del nostro polmone, la tosse, che non è mai monocorde, non è mai uguale a se stessa, può essere secca, grassa, stizzosa, nervosa, abbaiante. E usando un altro criterio, quello temporale per esempio, può essere diurna e notturna, o ancora in base ad un altro indicatore, la durata, può essere acuta o cronica. Tutti questi aggettivi hanno un significato preciso per il nostro medico e ci fanno anche capire che la tosse è un sintomo dalle mille facce, in questo caso meglio dire dalle mille voci, e che ciascuna ci dice qualcosa di diverso, quindi meglio ascoltarla attentamente e chiamare il nostro numero verde. Spesso arriva con l'influenza, ma non sempre se ne va con l'influenza, a volte resiste. Il nostro esperto ci aiuterà a capirne di più e ad affrontarla nel modo migliore. Allora diamo subito il benvenuto al dottor Sergio Arari, direttore di pneumologia e direttore del Dipartimento di Scienze Mediche all'ospedale San Giuseppe Multimedica di Milano, che è qui pronto con noi a rispondere alle vostre domande. Buongiorno. Buongiorno. Buongiorno. Allora, dottore, l'inverno è la stagione della tosse, che è una delle complicanze più frequenti dell'influenza, tanto che ci sono persone che per evitarla si prendono subito gli antibiotici con la speranza di scongiurare il pericolo. Non è una buona idea, ma di questo parleremo nel corso della trasmissione. Ma intanto iniziamo a dire che, nonostante il fastidio e anche un po' la preoccupazione che genera, specie se dura a lungo, la tosse serve, è un mezzo di difesa che il nostro organismo mette in atto per liberarsi da agenti nocivi. Della serie, dottore, non tutto il male viene per nuocere, insomma. No, assolutamente, la tosse è un meccanismo di difesa fisiologica che protegge, per esempio, dall'eccessivo catarro o da altre situazioni che si possono venire a creare, e questo deve ricordarci, per esempio, che l'uso dei farmaci cosiddetti antitosse va fatto con attenzione e ragion veduta, perché è chiaro che una tosse molto importante deve essere in qualche modo calmata, ma che invece altri tipi di tosse possono avere un effetto negativo nell'uso di farmaci di questo tipo. Quindi possiamo, dottor Arari, invitare i nostri ascoltatori, se state pensando di prendere un farmaco, se lo state già prendendo, chiamateci 800 24 0024. Ma intanto vogliamo fare qualche distinzione: c'è tosse e tosse. Allora, analizziamo la nostra tosse in base a tre indicatori: il suono il momento della giornata in cui si manifesta, di giorno o di notte ad esempio, e gli ambienti in cui più facilmente si scatena, all'aperto o al chiuso. E ancora, quando si scatena l'attacco di tosse, quando siamo fermi o quando siamo in movimento, quando siamo sdraiati o in piedi. Dottor Arari, che dice? Basta o aggiungiamo qualche altra informazione? Ma queste sono le informazioni più importanti. Io credo che un'opera molto importante sia quella proprio di insegnare in qualche modo al paziente ad ascoltarsi, questo in generale per qualsiasi sintomo, e a raccontare i propri sintomi in maniera, come dire, precisa al medico, in modo tale che li possa poi interpretare e analizzare. Allora, il sapere se la tosse compare di giorno, di notte, se è per accessi, se è produttiva, cioè grassa, se è secca, se si manifesta dopo i pasti o dopo comunque l'assunzione di bevande, se si manifesta in posizioni particolari, solo seduto, solo sdraiato, quando cammino, quando faccio sforzi fisici, quando sto correndo, tutti questi sono... Perché è vero che c'è anche la tosse del runner, dottor Arari? Diciamo che tipicamente il bambino ha l'asma da sforzo che si manifesta poi in varie manifestazioni che possono anche interessare l'adulto, e il primo sintomo comunque dell'asma è la tosse. Quindi la tosse del runner in realtà molto frequentemente è una tosse che spia di una situazione che noi chiamiamo di iperattività bronchiale, ma che sta a dire sostanzialmente che c'è una risposta inizialmente asmatica dei nostri bronchi. Allora, quando iperventiliamo mobilizziamo una quantità d'aria molto importante, e questo può determinare una risposta di questo tipo. Prima Nicoletta ci ha detto attenzione al suono che questa tosse ha, e poi soprattutto attenzione anche al momento della giornata in cui si manifesta. Maria Pia da Verona, buongiorno. Buongiorno. A lei quando Benvenuta. Tocca. Com'è? A lei quando tocca. Praticamente io alla sera, quando mi corico in camera, con la scusa che purtroppo nelle mura ci sono forme di muffa che faccio fatica a togliere, mi viene questa tosse, e dalla parte del bronchiale sento male, faccio fatica a respirare ultimamente più di altri giorni, e la sento più alla sera, mi viene la tosse, e alla mattina. E lei dà la colpa, Maria Pia, a queste muffe? Sì, perché questa tosse la sento che non è la classica tosse secca o grassa. Mm. Praticamente ha qualcosina di diverso e poi soprattutto sì. Si manifesta sempre nello stesso ambiente. Dottora Rari, sì. può avere ragione Maria Pia? Si è fatta una diagnosi potrebbe corretta? Avere ragione, ma per esempio in questo caso è molto evidente come raccontare dei sintomi è molto indirizza molto la diagnosi, cioè se la signora dice ma io quando vado a lavorare invece la tosse non ce l'ho, oppure quando vado in vacanza la tosse non ce l'ho, ce l'ho solamente quando sono a casa, è evidente che questo evoca la possibilità di un problema ambientale e le muffe potrebbero essere sicuramente degli allergeni che possono scatenare una reazione asmatica e quindi la tosse. Se invece la tosse si manifesta alla notte, anche quando, dico per dire, vai in vacanza in un'altra casa, allora qui viene a decadere immediatamente l'ipotesi che possa esserci qualcosa di locale. Poi anche qui bisogna vedere se invece il problema non è legato alla posizione, cioè se non è il fatto di essere sdraiati che può generare una serie di situazioni per cui la tosse si manifesta che gioca sfavorevolmente, quindi anche qui chiedere se questo è legato al fatto che è sdraiata nel suo letto, se quando è sdraiata si manifesta. Vedete come il raccontare i sintomi sia importantissimo per poi indirizzare il medico verso la diagnosi o perlomeno verso gli accertamenti da effettuare. E infatti sono tantissimi gli ascoltatori che stanno chiamando l'800 24 00 24, continuate a farlo perché voi ci raccontate il vostro caso, il dottor Arari vi darà delle indicazioni che servono anche alle persone che stanno ascoltando. Paola, buongiorno da Padova, benvenuta. Da Padova, sì, grazie. Che tosse ha lei? Come la descriverebbe? Ogni tanto un colpetto che proprio mi serve per respirare meglio e per schiarire proprio la gola. Ce l'ho soprattutto, proprio devo tossisco abbastanza prima di coricarmi, e proprio come se dovessi liberarmi. Il respiro, sì, la voce non è proprio completamente pulita, è un po' rauca. E adesso è difficile da descrivere, però proprio una sensazione di avere come uno spiffero di aria fredda in mezzo alle costole, in mezzo ai due seni, proprio una sensazione fastidiosissima che non ho mai provato prima. E non ho avuto influenza, non ho avuto mal di gola, per cui è lì, è arrivata sì, lei sì. Dottor Arari, insomma, qui sembra di capire che c'è una tosse che è sporadica, che non ha fattori scatenanti, che si associa a quello che viene definito normalmente un senso di costrizione toracica. La prima cosa da fare è escludere che ci possa essere una formazione, una fonte di tipo asmatico della tosse, perché tosse e costrizione toracica evoca la possibilità di una diagnosi differenziale in questo senso. Cuore e denari. Chi è? Il professor Tucci. Ah, il professore violino, il violinista. Come va, professore? La lirica riprende? Ah, la lirica sì, sono io che non mi riprendo. Asma bronchiale. Sentire? Tossisci? Alt! Tossisci? Alt! Respira forte? Alt! Non respirare? Ecco là, le lezioni le fai? Sì, un giorno sì, un giorno no. Quest'estate mare e sole, terapia solare. E per quel tinticarello in gola? Dai da barba. Secca, grassa, colpi abbaiante con il sibilo, tanti tipi di tosse, tante cause, bronchiti trascurate, mal curate oppure incuranti delle cure, sbalzi improvvisi di temperatura, forme asmatiche misconosciute, influenze resistenti e antipatiche, il tutto anche condito in salsa smog. Parliamo di tosse, 800 24 00 24 insieme al dottor Sergio Arari che è in linea con noi. Dottor Arari, può arrivare con l'influenza la tosse, ma può durare più a lungo e trascinarsi per giorni, a volte per settimane, nei bambini soprattutto. Oggi c'è la tendenza a utilizzare i farmaci da banco per la tosse con grande disinvoltura, aumentando così anche però i rischi, gli effetti indesiderati. I sedativi della tosse, per esempio, se non sono usati in modo corretto, e io aggiungerei se non sono stati prescritti dal medico, possono creare dei problemi, è vero? Sì, soprattutto appunto in queste situazioni in cui la tosse, come dicevamo prima, è un riflesso di protezione delle vie aeree, quindi si rischia di fare autogol. L'altra cosa è che molto frequentemente la causa della tosse post-influenza è legata al fatto che i virus influenzali hanno un'azione irritativa, è come se proprio graffiassero la mucosa bronchiale. In questi casi bisogna agire con delle terapie invece di altra natura, come per esempio gli aerosol medicati, che tendano a far disinfiammare i bronchi gradualmente, e quindi bisogna fare una terapia mirata, se no si rischia di trascinare la cosa a lungo in maniera del tutto inutile. Dottor Arari, noi oggi vogliamo sottolineare che di fronte ad una tosse che dura qualche giorno, a volte qualche settimana, bisogna parlarne con il medico, perché è solo lui che può fare la diagnosi. Però noi oggi vorremmo che lei ci aiutasse a capire se la tosse che disturba le nostre giornate a causa dei nostri risvegli, magari nel cuore della notte, è un sintomo da riferire al nostro medico curante, e soprattutto a quali altri aspetti dobbiamo fare attenzione. Abbiamo detto che avremmo letto la tosse in base a tre indicatori. Il primo è sicuramente il suono. E allora, la tosse grassa, dottor Arari, o per meglio dire produttiva, come si dovrebbe chiamare, che cosa, quali informazioni ci dà? Allora, prima di tutto ci sono tossi acute e tossi croniche. Quando la tosse è caratterizzata dalla presenza di catarro per almeno 3 mesi all'anno, per 2 anni consecutivi, cioè una tosse produttiva, quindi che persiste per almeno 2 anni consecutivi, almeno 3 mesi ogni anno, porta già la definizione di bronchite cronica ostruttiva. E quindi questa è una classica manifestazione del fumatore, che però purtroppo oggi vediamo crescere anche nei non fumatori a causa dell'inquinamento e di altri fattori ambientali. Poi invece ci sono le tossi acute legate ad un episodio infettivo, come le bronchiti acute, che quando sono grasse di solito sottendono la presenza di catarro, e lì bisogna che il medico valuti se è necessaria una terapia antibiotica di pulizia o meno. Abbiamo Teresa che ci chiama da Brescia. Sentiamo la sua tosse prima di parlare invece della tosse stizzosa, quella secca, a volte c'è anche un sibilino, la tosse che raspa anche un quella po' in gola, a volte può diversa. Essere anche nervosa. Il dottor Arari ci darà sicuramente le indicazioni per differenziare questi due tipi di tosse. Teresa, buongiorno, benvenuta. Buongiorno e grazie a voi. Ecco, questo è quanto mi accade, e mi accade da tanti anni. Praticamente la sera, quando sono a letto, nel momento in cui mi metto nel mio lato di fianco, quindi ho già anche letto, ho già anche parlato con mio marito, ho fatto, insomma, e non ho avuto nulla fino in quel momento, nel momento che spengo la luce della abat-jour, mi giro sul fianco, avverto questo, comincio ad avere una sensazione come se le pareti della mia gola si incominciassero ad appiccicare, e io so che si sta preparando dei brevi colpetti di tosse, e comincio anche a deglutire più saliva che posso, anche perché vorrei evitare di fare quei colpetti di tosse, anche perché mio marito mi sente e lui mi dice: ma Terry, ma sai che sono tanti anni che hai questa cosa, ma possibile? Però il fatto è che si tratta proprio di qualche colpo di tosse secca, e poi basta. Io non ho tosse durante la notte, non ho, ma sempre puntualmente la sera, nel momento in cui ho spento, mi giro sul fianco e devo essere lì pronta per addormentarmi, capita questo. Che succede? Dottor Arari, Deborah dice: che succede nell'apparato respiratorio di Terry? Ma io credo che non succeda nulla. Credo che la cosa più probabile è che questa sia proprio invece una tosse nervosa, perché il fatto che il paziente, in questo caso la signora, descriva che appena spegne la luce le compare la tosse, che dura poi lo spazio di un momento, noi dobbiamo sapere che molte manifestazioni psicosomatiche, per esempio come i pruriti anche, si manifestano nel momento in cui abbassiamo le nostre difese quotidiane, quindi quando spegniamo la luce e ci mettiamo a letto. È una classica manifestazione medica. Non credo che la posizione faccia collabire le vie aeree della signora, credo invece più probabile che nel momento in cui lei, al momento di rilassamento, appunto spegne gli interruttori della sua mente, spegnendo la luce sul suo comodino, le compare un sintomo irritativo che poi per fortuna va via e dorme tranquillamente. Dottor Arari, Deborah faceva accenno alla tosse nervosa. Ci sono tante persone che hanno bisogno di schiarirsi la voce più volte durante durante il giorno, e magari se si fermano a pensare notano che questi momenti sono quelli in cui magari sono un pochino più sotto pressione. Rientra nel capitolo delle tossi? Assolutamente sì, il problema è che la tosse è un sintomo estremamente frequente che può essere espressione di tantissime malattie, le più frequenti le abbiamo dette, ma può anche essere espressione di situazioni più diverse. Adesso poi va di gran moda il reflusso gastroesofageo, per cui sembra che tutti quelli che hanno la tosse abbiano la tosse da reflusso, tanto per dirne una. Arrivare a dire che una tosse nervosa significa o che ha delle caratteristiche molto particolari come quelle della signora che ci ha appena telefonato, oppure necessita di escludere tutte le altre cause di, invece organiche, di tosse. Quindi non sempre è così semplice. Dottor Arari, parlando di tosse, vogliamo naturalmente parlare anche della tosse del fumatore. Il fumo è un pericolo serio per la salute generale e quindi naturalmente anche per quella delle nostre vie respiratorie, dei nostri polmoni, che perdono a poco la loro funzione e si ammalano. Ecco, allora, la mancanza di fiato e la tosse, sintomi che spesso chi fuma mette in conto, ma che invece sono dei veri e propri campanelli d'allarme, perché possono presentarsi anche nelle persone che hanno smesso di fumare. Sì, come dicevamo prima, la cosa più frequente che si può manifestare in questi soggetti è la bronchite cronica, che può essere semplice o ostruttiva se anche associata a enfisema, e che è caratterizzata da quello che dicevo poc'anzi, cioè tosse e catarro per almeno 3 mesi all'anno in 2 anni consecutivi. Qui lo dico perché tutte quelle indagini in cui vengono riportate, per esempio radiologicamente, la lastra del torace e segni di bronchite cronica non sono corrette, perché la definizione è quella che ho detto prima, è una definizione quindi prettamente clinica. Purtroppo in queste situazioni la cosa più importante da una parte è convincere la gente a fare la prevenzione e quindi a non fumare. Quando invece la manifestazione clinica si è ormai acclarata, esistono tutta una serie di farmaci, di presidi che possono limitare l'evoluzione temporale e controllare i sintomi, che però vanno gestiti in maniera specialistica. Dalla tosse cronica dei fumatori vogliamo passare a quella ostinata dei nostri bambini, che preoccupa tanti genitori nei bambini piccoli, soprattutto quelli che frequentano i nidi, le scuole materne, particolarmente nei primi anni. La tosse con catarro è molto frequente, dottor Arari, questo a volte non basta rassicurare i genitori, che di fronte ad attacchi di tosse violenti si allarmano. Allora iniziamo a dare qualche informazione a misura di bambino. Il catarro è molto fastidioso, ma non va represso perché ha una sua utilità. Assolutamente sì, così come non va repressa la tosse, però non va neanche bene che il bambino rimanga con la tosse e il catarro per mesi e mesi, perché questo poi alla distanza può avere delle ripercussioni. Quindi bisogna prima di tutto, e questo poi in funzione dell'età del bambino e degli accertamenti che si possono fare, escludere che non ci siano delle condizioni che favoriscono la tosse, come per esempio appunto delle forme asmatiche che non sempre nel bambino piccolo sono facilmente riconoscibili, o delle bronchiti che si sono un po' trascurate e tirate in lungo, e poi cercare comunque nei limiti del possibile di controllare e prevenire le recidive. Il vaccino antinfluenzale può avere indicazione, il vaccino antipneumococcico può avere indicazione, trattare in maniera appropriata qualsiasi situazione appunto asmatica o qualsiasi episodio acuto di tipo bronchitico, per evitare comunque che ci sia una gratuita perduranza di secrezioni nell'albero respiratorio del piccolo. Prima si diceva i bambini prendono la tosse in inverno e poi gli passa quando vanno al mare. Invece, e quindi bisognerebbe ridurre un po' il tempo. Allora, dottor Arari, un caso per lei, un papà, una mamma che ci scrivono: mio figlio 3 anni ha avuto per 2 volte virosi respiratoria con tosse grassa a carico delle prime vie respiratorie, terapia aerosol, cortisone, ma va sempre bene. Quando aggiungervi mucolitico o gocce di broncodilatatore? Per il pediatra al telefono, da solo cortisonico. La prima linea di trattamento comunque delle situazioni di tipo infiammatorio è il cortisonico, e bisogna specificare che i cortisonici utilizzati per via aerosolica hanno un'attività sistemica, cioè vanno nel nostro organismo in maniera praticamente marginalissima, quindi non hanno effetti collaterali significativi. Possono essere indicati anche i broncodilatatori, li bisogna valutare però sul singolo caso clinico. Certo. I fluidificanti di solito, a parte il fatto che molto frequentemente sono compresi nelle soluzioni che contengono l'aerosol, dati in maniera singola, cioè al di fuori dell'aerosol, nel bambino piccolo hanno un effetto limitato, quindi l'indicazione è utilizzare soluzioni di cortisonici inalatori, eventualmente broncodilatatore, che già contengono il fluidificante o aggiungere fluidificante nell'aerosol che componiamo. Andiamo a Luigi, non è più un bambino, ci no. chiama da Mantova. Un po' Aldo. Cresciutello, Luigi. Al 800 24 00 24, benvenuto Luigi. Luigi, benvenuto. Grazie, buongiorno. Però buongiorno. Tosse, anche se è cresciuto, è sempre fastidiosa, non c'è niente da fare. Sì, anche perché è una decina d'anni in pratica, se prendo un po' di raffreddore, un minimo di influenza, poi mi rimane una cosa che mi dura per un mesetto, anche di più a volte. Nonostante le cure, diciamo così, importanti che faccio, cioè le gocce di un antitosse importante e pesante, i puff di cortisonico, ho già fatto tutte le analisi per le allergie, non dovrei avere l'asma eccetera, perché abbiamo fatto le analisi specifiche, però rimane questa tosse, quindi mi chiedo se nonostante queste cure pesanti c'è qualcosa magari di più mirato per riuscire a risolverla. Tutto qua. Grazie Luigi. Dottor Arari, ha fatto ma la tosse persiste. Sì, c'è questa allora, coda. Prima di tutto, in queste situazioni bisogna appunto essere certi che proprio non ci sia nessuna componente asmatica che venga slatetizzata dall'infezione virale, cioè che, e questo è molto frequente, cioè ci sono delle situazioni totalmente asintomatiche in cui il paziente non si accorge di avere una forma molto lieve asmatica, e poi quando prende il virus dell'influenza si scatena questo meccanismo che lui ha appena raccontato, per cui si trascina poi la tosse perduratamente o fa molti episodi bronchitici. Ma qual è l'esame, dottor Arari, che permette di fare diagnosi precisa di asma? Allora, l'asma è una malattia che non sempre è facilissimo diagnosticare, ma nella stragrande maggioranza dei casi basta ascoltare visitando il paziente e facendo la spirometria. In casi come quello che potrebbe essere del signore, un test che è sempre un tipo di spirometria che si chiama la metacolina permette di diagnosticare quei soggetti che hanno dei momenti in cui sono asmatici e dei momenti nei quali non lo sono, e quindi potrei ascoltarlo e fargli la spirometria nel momento in cui non lo è. Quindi la prima cosa è come fare un holter, cioè dato che l'asma magari non la beccano subito, allora certo. Fanno questo esame, giusto dottor Arari? È un test di simulazione sostanzialmente, ecco. Cui do una sostanza e vado a vedere se lui risponde con una risposta di tipo asmatica, perché i test, ricordiamoci che molte forme asmatiche non sono necessariamente allergiche, per cui non necessariamente se facciamo i test cutanei o i test di allergie troviamo l'allergia, ci sono anche pazienti che non sono allergici come il classicamente li immaginiamo e che sono invece francamente asmatici. E questa è una situazione molto frequente che permette di attuare dei trattamenti che prevengono le continue ricadute bronchitiche e prevengono che poi si trascini la bronchite quando uno la fa. Se tutto questo viene escluso, purtroppo bisogna prima di tutto vedere se non c'è una labilità, cioè una fragilità dei bronchi, e questo si può fare attraverso indagini radiologiche come un TAC ad alta risoluzione, e poi dall'altra parte usare le metodiche preventive che abbiamo, che sono fondamentalmente il vaccino dell'influenza stagionale e il vaccino pneumococcico. Allora, abbiamo tante telefonate all'800 24 00 24, per fortuna abbiamo tempo di sentire Andrea che ci chiama da Livorno. Certamente. Andiamo un po' in Toscana, benvenuto. E poi naturalmente e poi abbiamo Bruno. Consettone. Buongiorno Andrea. Buongiorno, buongiorno. Senta, volevo fare una domanda. Dunque, io durante il giorno, chiaramente lavoro, non ho diciamo nessun sintomo, non ho tosse. Ecco, sono un po' affaticamento, ma lo dico per via del sovrappeso, immagino sia quello. Allora, il problema è che la sera, quando rientro, dopo che mi rilasso, mi metto magari in poltrona e allora comincio a sentire come liquido nei polmoni, ha capito? Fanno proprio un rumore. Sì, e borbottano. Se respiro a fondo e trattengo il respiro, sento come un sibilo. Mm. E poi la notte, io questo mi è stato riferito perché dormo. Sì, russa, Andrea. A parte russare, proprio come se avessi del materiale all'interno. Allora, dottor Arari, al mattino non c'è più niente. Al mattino si sveglia fresco e riposato, ma quando va a dormire ci racconta questa situazione, insomma è un po'... Un trattorino. È possibile, dottor Arari, che... Bisogna fare due indagini, basterebbe visitare il paziente e fare una spirometria per capire qual è l'orientamento. Dobbiamo sapere che i polmoni non fanno normalmente rumore, quindi quello che lui descrive come un rumore bisognerebbe capire da quale struttura proviene. Se per esempio i bronchi possono dare quel sibilo che delle volte ascoltiamo anche nei bambini, che potrebbe essere il caso del signore, oppure bisogna capire se non nasce da qualche altra parte questo rumore. Perché Ippocrate diceva la voce del polmone, in realtà la tosse può essere la voce anche di altri organi. Chiediamo ad Andrea semmai di scriverci, perché abbiamo giusto il tempo di dare la parola a Bruno che ci chiama dalla provincia di Ancona. Ricordiamo la domanda velocemente: secondo voi è più contagioso il colpo di tosse o lo starnuto? Bruno, secondo lei, rapidissimo? Secondo me lo starnuto, perché permette l'apparato buccale, dove ristagnano le goccioline di saliva, dove ristagna il virus, praticamente vengono espulse dall'apparato buccale con una velocità molto superiore rispetto alla tosse. Bravo. 10-20 metri al secondo, per cui si diffonde nell'ambiente in maniera molto più lontana. Quindi proteggetevi dallo starnuto, però tiratevi anche un po' indietro e soprattutto mettiamo la mano davanti alla bocca, a Bruno, quando dobbiamo tossire. A Bruno il regalo, che cosa? Allora, cuore o denari, Bruno? Per il libro? Denari. Allora, un libro di denari a Bruno. Un grazie di cuore al dottor Sergio Arari per essere stato con noi, per averci aiutato a capire di più di questo sintomo tosse. Buona giornata, dottor Arari, a presto. Grazie. A presto. Noi ci ritroviamo naturalmente domani. Grazie a tutti e buona giornata.